La molecola di acqua è formata da due atomi di idrogeno, con numero atomico 1 e un atomo di ossigeno, con numero atomico 8. Qual è la somma dei numeri atomici al suo interno? La molecola di ioduro di sodio è formata da un atomo di sodio, con numero atomico 11, e un atomo di iodio, con numero atomico 53. Qual è la somma dei numeri atomici al suo interno?